something of a twist to a lullaby. The scalpel shines and got sunshine, the street lights whisper burn. Down here near the poison stream, our God is gone insane. She smells like a child with flowers in her hand, with blood on her hands, into the city stands she. Like a child with flowers and a hell with blood on her hands, into the city says she feels it dying. Never felt the same, so to read in the house of dissection, when you come upon that old resurrection, she runs through fields of daisies. Yeah, it's just a shame that they keep their own babies. Who cares? Cause the air is free. scream of the butterfly. I like the scream of the butterfly. Buonasera, buonasera a tutti quanti. Siamo qui live da Radio Wombat. C'è Iovo all'apparecchio digitale che riproduce il mitico volume. Siamo appunto pronti a far partire la prima puntata live di Music Vox Populi. Sono in compagnia di quattro persone, fra cui c'è il mitico Pizzo. Ciao, eccomi qua. Poi Andrea è il grandissimo il partner di Guido, diciamo così, in Fuoco alle Polveri. Allora, senza bando al cioè, possiamo partire quasi seriamente adesso. Diciamo subito che questa è la prima puntata del programma. Siamo live per la prima volta. Io sono live per la prima volta. Del resto vi posso dire che appunto perché è nato questo programma e soprattutto che cosa andrò a trattare. In semplici parole vi dico che appunto il programma è nato per dar voce al popolo, se così si può chiamare, diciamo anche di sì, che appunto crea musica, la crea, se la produce da sola, se la registra da sola in alcuni casi, quindi è giusto dargli un giusto spazio, diciamo. Invece, per quanto riguarda il discorso legato al perché appunto è nata questa trasmissione, l'abbiamo detto, quello che si andrà a fare appunto è semplici chiamate con l'artista. Fra poco sarà live il Giardino di Armida nelle vostre orecchie, se così si possono definire, o quello che comunque utilizzate per ascoltare Radio Wombat, Music Vox Populi di preciso. Del resto, niente. Partiamo appunto con la prima canzone del Giardino di Armida che si chiama Pietà. Poi, subito dopo, lo sentiremo direttamente live nei microfoni di Music Vox Populi. Star qui a parlare di pietà, mica siamo grillini, o peggio ancora qualunquisti, ma ogni tanto è carino aprirsi e parlarne, giusto per commuovere qualche vecchio ingannato e l'attesa furia di volte che pesca, tra poco avrò finito e forse offro io. Io non sono un cazzo a differenza di Francesco, e c'ho in comune solo il bestemmiare è poco altro. Il problema mio è soffrire troppo l'essere solo. Mi scrivono tranquilli, già qui sei un depresso, ma non è quello che dici, ce lo aspettiamo tutti. Ho scritto tanto debole e le altre malattie, che ho perso la cognizione, solamente delle mie. Le sento sulle spalle, mi fa anche cascare le palle, che non le ho mai avute, poco e niente le usate. Ho l'orgoglio spesso di bastarmi da solo, ma anche a volte no, allora con calma magistrale tolgo le scarpe e vado a dormire. Tolgo le scarpe e torno a dormire. Ed eccoci di nuovo live. Appunto, dato che siamo di nuovo live, siamo pronti a presentarvi l'ospite della giornata, ossia il giardino di Ermida, a.k.a. Saverio Marasco. Vediamo se risponde, vediamo se c'è. Giardì, ci senti? No, non ci sono, non ci sono. Non ci sei, va bene così, va bene così. Buonasera Wombat, buonasera Music Box Popoli, soprattutto buonasera Iovo, che voi lo conoscete come Iovo, ma io lo conosco semplicemente come Giovanni Pace. grande, sì, va bene, vai Saverio, grandissimo. Va bene, yeah. Sì, sì, ci sta l'impapinatura iniziale. Allora. È normale. Allora, dato che questo pubblico è completamente nuovo, sia per me che per te, iniziamo con una semplice presentazione, una semplice biografia, che diciamo, che dici? E niente, il giardino di Ermida, allora tu la mia storia musicale più o meno la sai, visto che siamo nello stesso ambiente. Il giardino di Ermida nasce intorno al 2014, cos'era? Insomma, facevo il quarto superiore, venivo da un'esperienza punk rock, di un gruppo punk rock, decisi che era il momento di abbassare un po' il volume, di concentrarmi più che sul puntare il dito da bravo quindicenne sul descrivere cose. Iniziai ad ascoltare un sacco di musica folk, un sacco di cantautore italiano, anche cose tristissime che ora non ascolto più, come Vasco Brondi, purtroppo sì. E iniziai a scrivere canzoni e niente, purtroppo siamo qua. Ora con me c'è il maestro Giuseppe Rocca, che saluto, alla chitarra elettrica. Mi dico il maestro Giuseppe Rocca, tantissimi saluti a sua eccellenza Rocca, perché davvero il tocco della chitarra che dà lui, proprio roba allucinante, bravissimo. E lui suona veloce, a differenza sì, di sì, altri. A differenza di un certo Pablo Caroleo, che salutiamo! A differenza di che salutiamo! comunque, niente, questo pezzo che avete sentito è un po' una presentazione che mi piace fare del giardino, perché è semplicemente quello che ho sentito nella canzone. Al primo live tu c'eri, perché suonavi, cantavi con gli ADD, sì, e sì, tu sì, al Caffè delle Arti con una canzone che tra poco mi sembra che dovremmo passare. Iniziai, sì, sì, diciamo, mai... fra un bel po'. Sì, e sì. Iniziai con questa canzone che sentirete dopo e niente, susseguirono date, eccetera. Prime registrazioni, per poi sfociare comunque da registrazioni più catarecce a registrazioni più serie, dal mio carissimo amico Danny Chiefalo, che saluto pure. Che salutiamo, perché ormai salutiamo il mondo, sì, quindi sì, salutiamo sì. Anche Marco Papaleo, sì. Che ci è stato all'inizio. Sì, il mitico Paparoccio. Stava stirando, a me ha detto che stava stirando e che ha detto che ci metteva direttamente là, così poi non avevo lo sbatti di andare a cercare, quindi grandissimo Paparocci. Ha fatto bene, che c'è Paparocci, c'è stato all'inizio, e anche le mie compagne di vita, Larina e Nat, e poi visto che siamo in vena, cosa ne pensate delle porte scorrevoli? E questo è, diciamo, una frecciatina... Frecciatina saluta una persona. Sì, sì, dai. E niente. Facciamo che mandiamo la prossima canzone e poi ne parliamo insieme. Okay. E poi nel frattempo ti presento anche, quando finisce la canzone, ti presento anche il mio amico Pizzo, che ha sentito Ovvietà e gli è piaciuta abbastanza, quindi poi magari ci saranno anche le sue considerazioni, dai. Va benissimo. Ok, allora ci si sente dopo. Il pezzo che... sto per caricare, che sto per mettere su, lo conosciamo più o meno tutti, ce l'hanno detto più o meno tutti, che siamo dei maledettissimi figli di puttana, giusto? Giusto. Wombat Wombat. Ci sta come un temporale, pochi lampi di genio nazional popolare. Ci sta un canto di sirena, tipo un suono sempre uguale. Niente a vedere con la musica, piuttosto col volare. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. se n'è andata la mia infanzia. Giardi, ci senti? Ci sei? Ci sento. Ci sei? Ci sei sono. Ancora vivo? Siamo Grande ancora show. Vivo. Siamo ancora in streaming? Siamo ancora sì, in sì. streaming e ci sente il mitico Pizzo adesso. Ciao! Ciao Pizzo, ci hanno già presentati. Evviva! Grande Giardi. Mi è piaciuta un sacco la prima canzone. C'è una bella voce, molto espressivo. Grazie. Tra l'altro, ricordo che il giorno della registrazione di Ovvietà che è successo? Andai praticamente in studio con mal di gola, quindi non doveva essere in quel modo, però il risultato mi è piaciuto ancora di più, quindi ma spesso è così, sì sì, grande, no infatti, non sempre nelle migliori condizioni vengono le migliori cose, dai, è una bella... Sì, appunto, considera che molti cantanti, anzi molti band praticamente che fanno? Si sballano, si fumano e fanno roba varia per poi andare a comporre musica, e tant'è che gli esce molto meglio rispetto a quando lo fanno senza. No. Mi trovi al contrario, non fare il tossico. Io la regola d'oro, cioè, prima di suonare, né si beve né altro. Io mi sa che ho la regola d'oro assolutamente opposta alla tua, però si può andare d'accordo lo stesso. Però, stai tranquillo. Aspetta, prima di suonare questo, perché poi dopo che si suona, ciao. No, invece per me proprio prima di suonare c'è il rituale, ecco appunto, che insomma la bombetta prima di suonare la scivola. No, noi prima di suonare niente, poi dopo suonato sì, ci suoniamo anche noi. Allora, è giusto. Bando alle ciance, allora, abbiamo sentito Figlio di puttana, degli Zen Circus, perché? Sì. Perché? Perché, come accennavamo prima, questa è stata la primissima canzone in assoluto che ho suonato su un palco come il Giardino di Armida. Praticamente l'iter è stato un po' particolare, perché prima di suonare a questo festival che avevamo organizzato anche con Yobo, sì, che poi diciamo il grandissimo Rock in Catanzaro. Catanzaro con 5 tattiche che non guastano mai. Non guastano mai. Avevo già pubblicato un'altra canzone che si chiama Requiem, però la scala si iniziava con Figlio di puttana e gli Zen, uno dei gruppi da cui ho preso veramente tantissima ispirazione. Grande. Tra l'altro il Zen Circus, che ho avuto il piacere di vedere live questo gennaio alla Mezze Terme, e andateci ragazzi in ascolto, andatevi a vedere un live degli Eastern Circus, che sono qualcosa Oh, di scusa, fatto, fatto, paura. belli, No, vabbè, ci siamo fatti, cioè, qua in Toscana ovviamente li hanno visti tutti, ma Ah, vogliamo dire ovviamente le hanno viste tutte. beh, ma vogliamo dire una Ma cosa. se ci dovessero essere delle poche persone che non li hanno visti, Sì, cazzo, andatevi a ah, vedere veramente perché gli Eastern Circus. valgono davvero la pena. Tu considera che io la prima volta li ho visti live a Budapest, e Allo quel Ziggert, famoso, metro. sì, quel famoso giorno del tuo compleanno in cui ti mandai anche gli auguri da Pino. Quindi ricordiamo anche Sì, queste cose perché. ma Ma poi. spieghiamo questa cosa. Sì, spiegamolo, spiegamolo. A voglia. Allora, praticamente il giardino di Armida ha questa cosa, questo format, diciamo che si chiama Vaffanculo al giardino di Armida. Quindi Tutto pizzo? deriva. Quindi pizzo? Come? Vaffanculo al giardino d'Armida. Ok, Grazie, questo. cosa Vaffanculo. bella. Proprio No, fanchiulo. Dici, dici, tutto vogliamo deriva capire da sto Giorgio fanchiulo. Canali. Tutto deriva da Giorgio Canali, grandissimo, Grande. che mi mandò a fanculo per una cosa molto complicata. Se andate sulla pagina Facebook di Giardino del Mila c'è tutta la storia. E da lì nacque questa cosa di andare a fare un video o comunque un qualcosa ad artisti indie molto importanti anche per la mia formazione, in cui mi mandano a fanculo. Annoveriamo tra questi, vabbè, Giorgio Canali, a Pino, grazie a Iovo. Calcutta, Bruno Ritass e anche Ian Pace, il batterista dei Deep Purple, cazzo, Minchia, e ma poi gli fanculo al altri. giardino dormite. No, Armida, is you? Fuck you, cioè, qualcosa di malato. Bellissimo, dovresti mandarceli tutti. Sì, internazionale, oramai è la questione, però. Dicevo, gli Zen davvero, quando li scopri ti danno un qualcosa di assurdo. Per me Andrea Pino è veramente uno dei migliori parolieri che abbiamo in Italia. Cioè il suo primo album solista, Il Testamento, è qualcosa di wow. Quello del A voglia, Testamento, sì. sì, ricordo, c'era Stupendo. la prima canzone per Monicelli, mi pare, no? C'era Sì, quella. perché in Sì. quell'anno Monicelli si era suicidato e questa canzone che girava intorno all'eutanasia, comunque al diritto di scelta eutanasica, diciamo. Certo. Sì, a voglia. Allora, invece, tornando un pochettino indietro, ovvietà nasce per che cosa? Come ti è nata? La tua ovvietà, la mia canzone, ovvietà, insomma. la mia ovvietà in realtà è nata quasi un annetto dopo dall'inizio della questione il giardino di Armida. Niente, volevo fare un po' il punto su come stavano andando le cose e uscì questa canzone. Cioè io non, quando scrivo non, come dire, non mi impongo di scrivere, cioè di solito mi siedo in cameretta, chitarra, voce ed Bravo. esco. Evidentemente in quel momento sentivo queste cose e sono uscito. E i tuoi pezzi nascono chitarra voce, cioè nel senso te li pensi chitarra voce e dopodiché vengono riarrangiati con altre persone. Come funziona? Come il tuo modo di lavorare, ecco, insomma. Allora, di solito nascono chitarra voce con il foglio sul retro della chitarra, ovvero Sì. suonamento, si gira e si scrive la strofa che mi esce comunque al momento, che poi comunque va a migliorare e soprattutto trovo importantissimo la questione del suonarle live. Molte canzoni mie nascono e addirittura vengono registrate in un certo modo per poi prendere la loro vita live. Comunque adesso con l'entrata da maggio, sì, da maggio, Sì, si può dire di sì. dal maestro Rocca nel progetto, di solito faccio la canzone, glielo invio tramite WhatsApp o roba del genere, poi ci troviamo e la proviamo. Che poi addirittura lui, siccome col maestro, come lo chiamo, Sì, col maestro Giuseppe Rocca. c'è veramente un ottimo feeling, di solito non gli dico veramente niente, cioè lui cioè, si fa la sua parte di chitarra e sempre è quella che avevo in mente io senza dirgli niente, quindi veramente io me lo vanto tantissimo perché è Grande lui che dà il sintonia. tocco di stile, Grandi, anche se, grandi. pur, anche se purtroppo in ovvietà ancora non c'era questo sodalizio. Sì, effettivamente. Perché appunto, no? Stiamo parlando di ovvietà, ma la prossima canzone è quella che è nata, è la più fresca, diciamo. O sbaglio? No. Sì, no, allora, non è la più freschissima. Perché ce ne sono state altre, Mi un pare che altro c'è paio Cassonetti prima, scritte. no? Cassonetti è più fresca rispetto a questa, giusto? No, Cassonetti è più vecchia. Ok. Cassonetti è più vecchia. Però pietà, sì, vabbè, ciao ragazzi. La provinciale. Questa è la provinciale che in realtà non ho scritto io perché è una poesia del mio carissimo amico Emanuele Maletta, tratta dal suo libro di poesie Essendomi la noia, e segna il sodalizio tra me e Giuseppe che suonava prima in altri progetti e ci siamo sempre detti, avendo un'amicizia da anni, oggi, ma perché non suoniamo qualcosa insieme, non facciamo qualcosa insieme? Questa fu la scusa, registrammo, lui venne in sala di registrazione su un Apecar del nonno e ci tiene. Questi Ah beh, sì, cazzo. racconti pastori vanno sempre letti. E niente, ora ho la fortuna di suonare con lui, che è veramente, me lo vanto tantissimo. In realtà sto dicendo queste cose forzato perché mi deve far provare alcune sue chitarre nuove, quindi. Sì, perché lui, maestro Giuseppe Rocca, c'ha un'abilità nel trovare delle chitarre ogni tot di mesi. Assurdo. Sì, quando c'ha il denaro, come si suol dire, magari lui lo investe in chitarre, perché appunto c'è. La plata, Sì, quando tiene la plata sì. va a buscare una chitarrita. Giusto. Ma vedi che quello è sempre Pablo Caroleo, non è Ah, cazzo, sì, è Giuseppe. vero, c'hai ragione. È sempre Pablo. Ciao Pablo, Ciao sempre. Pablo, sei una merda, lo sai, sì? No, Un odio storico per mi hai Pablo portato Caroleo. sullo spagnolo, ti ho risposto Guarda, perché maccaroneggiante. prima di mettere la provinciale ti spieghiamo anche la situazione. Odio con questo Pablo Caroleo. Perché è una roba tipo odio amore, perché sai com'è quando sei ragazzino ti alzi le band, la band rivale, questa qua, quella che suona più di te, quella che suona anche meglio di te, quindi la guardi un pochettino di Ma non è malocchio. vero, ma non suonavano meglio di noi, ma mai nella vita. Che Ma vedi che cosa ero molto dici? sarcastico prima, sai? Ma lo Ah. spero, Comunque, fatto sta che adesso ci vogliamo tutti tanto bene, sai com'è, buono. con la crescita si mettono queste asce di guerra a posto perché non servono un cazzo. Vabbè, normale, eravamo Serve, ragazzini. sì, serve solamente tanta coesione che appunto, manco a farla apposta, me l'ho dimenticato di dirlo, momentaneamente Music Vox Populi si può dire che è in coesione con un'altra pagina Facebook che si chiama Underground Rock Italia, se non vado errato. Era una cosa che è nata questo pomeriggio, quindi mi faceva piacere ricordarla, perché succederà che probabilmente il Giardino di Almida andrà a fare un'intervista, se non ho capito male, anche con quest'altra scena, diciamo. Quindi, Oh, che cosa bella. Bella cosa. cioè, è una bella cosa, perché alla fine dei conti magari quest'altra musica underground, quest'altra pagina, magari c'è appunto altro bacino d'utenza, quindi Sì, poi connessione tra artisti è Sì, sempre sempre buona. positiva, no? Ok, Sì, dai, va. Giardi, facciamo una cosa. Mettiamo la provinciale, poi torniamo. Quattro parole sulla provinciale. Spieghi bene questa situazione con il tuo amico che ti ha prestato questo testo, tra virgolette. Scusate il colpo di tosse, ma sono leggermente influenzato. E niente, quindi la provinciale, Giardino di Armida con il maestro Giuseppe Rocca, anche se adesso si può dire Giardino Dermida. Ce l'andiamo a Ciao. sentire. A dopo, Giardi. A dopo. Scherzavo, piccolo errore. Le strade il sangue scorre come il fiume va verso il mare. Per le mie strade c'è tutto quel che ho avuto per poter amare. Per le mie strade è tutto vero, ogni gesto è più vissuto. Per le mie strade ho respirato senza battermi un minuto. Per le mie strade nasce vita, forse non lamento, su quelle strade che le vivi come un tormento. Per le mie strade un passo indietro, una non è concesso. Per le mie strade non è un peso legale del sesso. Per le mie strade folle che cammina è solo un folle. Per le mie strade si ha quel dio e giudica l'alcol. Per le mie strade si ama tanto da contare. Su quelle strade una legge nazionale. Per le mie strade si gioca con il nascondino. Su quelle strade dove non mi trovate sin da bambino. Le mie strade, la cultura mia si è formata. Per quelle strade c'è chi è andato, l'ha rinnegata, l'ha rifiutata, l'ha rinnegata, l'ha rifiutata, l'ha rinnegata. Per le mie strade c'è ancora una speranza. Su quelle strade del futuro in lontananza. Per le mie strade fa la gioia, un prettamente sotto un bel sole. Per le mie strade la già vita nello svanire del leone. Per le mie strade sono tutti lì ad aspettare, sempre bello e grande. Per le mie strade nessuno è puro, nessuno da scagliare il sasso. Per le mie strade ho faticato, ho iniziato pure a sognare. Sono quelle strade che ti lascio immaginare. Per le mie strade il 26 a dover ballare. Per le mie strade la forma che fa notare. Per le mie strade l'uomo ami lupus. Per le mie strade si è parlati solo attraverso lucius. Per le mie strade l'uomo ami lupus. Per le mie strade si è parlati solo attraverso lucius. Poi dalle mie strade sono come lampi per le tue. Per le tue sono quelle strade dove sa sempre, sempre Cimabue. Uè, Giardi! Oh, bella! Ci sei? C'è ancora, ci sono, c'è ancora ci il Giardino Domino. Oh, c'aveva una probabilità su dosi di sbagliare, e indovina che cosa ho fatto? Hai sbagliato! Grandissimo! Hai sbagliato! Il bello della diretta è il bello dell'essere... Bellissimo della diretta, Il dai. Bello dell'essere la prima puntata, il bello che ti tremano le braccia... Questo è un falso storico, questa puttanata del bello della diretta. No, voglio, no. Hai ragione, hai ragione, cosa... hai ragione. Però ci dobbiamo parare il culo in qualche maniera in questo momento. Cazzo, facci parare il culo. È un paramento di culo di quelli proprio storici. Storici. Bello della diretta, no, un cazzo. Imparate, capre. Allora, Pizzo, un piccolo commento sulla canzone, che te ne sembra? Dio buono, mi è piaciuta molto, si sente che c'è, a questa girata c'è Giuseppe Rocca e si sente, poi io non conoscevo Giuseppe Rocca, però ha un tocco effettivamente particolare sulla chitarra, ha fatto qualche armonico alla fine di, cioè a un certo punto ha fatto un paio di armonici, si sente insomma sul manico, veramente, sì. Veramente belli, alla fine di qualche verso così, più che altro mi è piaciuto parecchio, che riuscite molto a uscire entrambi, cioè non è una cosa, cioè, agli stessi volumi, si può dire così, gli stessi volumi, sì. La stessa espressività, io... diciamo un po' sì, te e un po' sì, lui, sì. Ecco, insomma, non lo so, bello davvero, spiegaci un po' com'è venuto fuori. Allora, innanzitutto ti ringrazio, poi vabbè, io con Giuseppe il discorso lo sa, non è che sia un mio turnista, cioè Giuseppe è il mio chitarrista e contribuisce quasi cioè allo stesso modo alle canzoni, difatti lui sarà sempre al mio stesso volume, perché altrimenti se dovessi prendere un musicista per suonare più basso di me, diciamo, non lo prenderei, cioè io credo in quello che fa, adoro quello che fa, quindi cazzo, si deve sentire, cioè questa è la, è la mia idea. Sulla canzone, niente, a parte il bel siparietto del venire a registrare sull'Apecar di un nonno. Come funzionò? Io sono molto amico a questo tale, questo tipaccio che si chiama Emanuele Maletta, che mi invitò alla presentazione di questo suo libro di poesie, che gli faccio anche un po' di pubblicità, si chiama Essendomi la noia. Durante questa la presentazione a una Ubic Catanzaro, mentre sfogliavo il libro, lessi questa poesia, La Provinciale, e subito lo guardai e gli dissi: no, Emanuele, lui conosceva il giardino, gli piacciono le canzoni. Faccio una canzone sopra, subito. Sì, io l'ho guardato e gli ho detto: senti, io prendo il testo così com'è, senza modificare niente. Se mi permetti devo musicarlo, perché sento proprio il dovere, il bisogno di musicare questa cosa. Perché è veramente in linea col tipo di testualità, diciamo, di poetica che voglio dare. Musicammi questa cosa, come già detto, la presi come scusa per incidere qualcosa con Giuseppe, infatti su YouTube è ancora riportato featuring Giuseppe Rocca, e niente, andiamo a registrare, fu molto bello e già lì capì come sarebbe andata con Giuseppe, in quanto io gli inviai una prima versione della canzone molto scarna, chitarra acustica, voce armonica, e lui mi inviò delle idee su alcune parti, però non avevo effettivamente idea di cosa sarebbe andato a suonare. E non negherò che in studio, quando sentì alcune parti per la prima volta, restai a bocca aperta. Infatti ci furono più registrazioni, se non sbaglio sono 4 o 5 parti di chitarra elettrica, in modo da dare una consistenza e di non togliere bellezza ad alcune cose. Poi il lavoro di mixaggio e di master di Danny Chiefalo ha fatto il resto ed è uscita una cosa, spero, passabile. Ampiamente, direi. Ampiamente, se andassi a Sanremo non ci resta in mani basse quest'anno come tutti gli anni, quindi è troppo bello, è troppo bello. Ma quest'anno sono ospiti in Meshuggah a Sanremo, mi dicono. No, in Meshuggah, ho sentito i Biffi Clyro io, che hanno ufficializzato. Ho visto davvero stamattina, sì, questa notizia dei Biffi Clyro, ma quindi è vero, è appurata. È vero, è vero, è vero. Cioè, adesso ci sarà il problema di chi cazzo ci parla con i Biffi Clyro? Faranno la stessa fine che ha fatto Eminem, che poi non vorrà venire più in Italia perché resta traumatizzato. Come finirà questa storia? Vabbè, ma penso che il duetto Albano Carrisi Baffi Clyro sia ben quotato. Ma sì, dai. Ma scusami una cosa, poi, no? Finisce la canzone di Albano, attacca Baffi Clyro, perché poi ci sarà il momento ospite, poi subito dopo di lui, Pupo. Cioè, capito? Io veramente non ho parole per quotata bellezza. Cioè, è la fiera dell'ignoranza, troppo bello, troppo bello. Cioè, io quest'anno guardo Sanremo, cioè proprio, cioè, io lo dico, io quest'anno lo guardo perché c'è veramente un dream team di arroganza musicale che non ho mai avuto uguali. No, forse negli anni 70 dovevo tornare molto indietro, però, cioè, si sente la mancanza di Totò Cutugno, l'inventore del death metal, come lo conosciamo. Oh, aspetta un secondo che ti devo raccontare una cosa. Siamo andati a Budapest, là, per lo Ziget. Sì. Tutto attorno, ci giriamo, eravamo dentro un pullman, sui palazzi di 30, 40, no, più, 300, quanto cazzo può essere il grande palazzo? Comunque, bello alto. Non c'era un cartellone pubblicitario. Totò Cutugno live ad Budapest, anche una cosa. Cioè, là sono pazzi di Totò Cutugno. Sì, in Russia, guarda, ma sì, sì, ma gente che all'estero è famosissima. Cioè, storie di artisti all'estero, sì, sì, sì, che fanno mega successo, di continuo arrivano. Esatto, sì. Io non so perché sono stato a Budapest, ricordo solamente la fine di birra da mezzo litro a 10 centesimi di euro, quindi non so, sì, altre, sì, cose. No, queste qua le ricordo anche io, sfocatamente me le ricordo, perché poi alla fine siamo andate a cioè, fare te le ricordi fino a un certo punto, sì, come sì, giusto, sì, che sì, sia. Sì, sì, sì, sì, assolutamente. Noi a Budapest non scorderò mai, perché sì, andammo in città al quinto superiore con il tuo bassista. Sì, sì, ok. Allora, fermi tutti, un saluto al mio zasso preferito. Al mitico Silvestro Perri, un altro lombare della sezione Imbare, come Marco Papaleo. Lombare Perri. con cui... fu assurdo perché trovammo in un negozietto un, cioè, un pezzo di storo, ovvero i sigari di marca Troia, cioè tu vedi, cioè, ce l'ho ancora, la confezione del sigaro origino non è Troia. Cioè, una marca di sigari Troia, sì. Troia. Sì, sì, marca di sigari ma Troia. Ma di dove sono sti sigari? Veramente... Ungherese. Cioè proprio senti quel degrado post-sovietico. Troia, cioè, incredibile. Allora, poi ci facciamo anche quattro chiacchiere sul discorso politica, magari. Molto alla, alla scivola, perché sappiamo tutti che il Giardino di Almida è un membro attivo, diciamo. Cioè, ha determinate idee che potrebbero tornare comodo, cioè potrebbero tornare al, alle idee che ha Radio Wombats e tutta la sezione in generale. Ma non è vero, io dico quando c'era lui in continuazione. Sempre colpa dei comunisti in questo paese. Va bene, allora, allora ricapitolando. A proposito di comunisti. A proposito di comunisti, no, ricapitoliamo un secondo. Allora. Ovvietà è stata messa, la provinciale anche, la prossima si sa già qual è in sordina, perché già è anche passata prima, quindi adesso però andiamo a mettere un pezzo di un carissimo amico di del mitico Il Giardino, giusto Giardino? Sì, sì, sì, amico di famiglia. Un amico stretto, cioè, abbiamo fatto le superiori insieme, come si suol dire. Sì, sì, sì, sì, sì, nel 34. Sì, siamo molto... No, no, è un maestro di vita, in realtà è... a 60 anni. No, non lo senti dalla voce. Ho il corpo di un ventenne, ma lo spirito di un 72enne. Datemi una poltrona. Allora, vabbè, facciamo che i complimenti all'artista di questo pezzo bellissimo li facciamo dopo, ne parliamo anche su che cosa è per te questa canzone, e quindi vai, andiamo. Vi dico solamente che si chiama L'Avvelenata, non diciamo nient'altro. Via. Wombat. Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni, credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato e accetto il crucifige e così sia. Chiedo tempo, son della razza mia, per quanto grande sia il primo che ha studiato. Mio padre in fondo aveva anche ragione a dir che la pensione è davvero importante. Mia madre non aveva poi sbagliato a dir che un laureato conta più di un cantante. Giovane ingenuo, io ho perso la testa, siano stati libri o il mio provincialismo, è un cazzo in culo e accuse d'arrivismo, dubbi di qualunquismo, son quello che mi resta. Voi critici, voi personaggi austeri, militanti severi, chiedo scusa a vossia, però non ho mai detto che a canzoni si fan rivoluzioni, si possa far poesia. Io canto quando posso, come posso, quando ne ho voglia, senza applausi o fischi. Vendere no, non passa fra i miei rischi, non comprate i miei dischi e sputatemi addosso. Secondo voi, ma a me cosa mi frega di assumermi la bega, di star qua su a cantare? Godo molto di più nell'ubriacarmi, oppure a masturbarmi, o al limite a scopare. Se sono d'umore nero allora scrivo, frugando dentro alle nostre miserie, di solito da far cose più serie, costruire su macerie o mantenermi vivo. Io tutti o niente, io stronze, io ubriacone, io poeta, io buffone, io anarchico, io fascista, io ricco, io senza soldi, io radicale, io diverso ed io uguale, negro, ebreo, comunista. Io frocio, io perché canto so imbarcare, io falso, io vero, io genio, io cretino, io solo qui alle 4 del mattino, l'angoscia è un po' di vino, voglia di bestemmiare. secondo voi, ma chi me lo fa fare di stare ad ascoltare chiunque ha un tiramento? Ovvio, il medico dice sei depresso, nemmeno dentro al cesso possiedo un mio momento. Ed io che ho sempre detto che era un gioco, saper usare o no ad un certo metro. Compagni, il gioco si fa peso e tetro, comprate il mio di dietro, io lo vendo per poco. Colleghi cantautori, eletta schiera che si vende alla sera per un po' di milioni. Voi che siete capaci fate bene aver le tasche piene e non solo i coglioni. Che cosa posso dirvi? Andate, fate, tanto ci sarà sempre, lo sapete, un musico fallito, un Pio, un Teorete, un Bertoncelli o un prete a sparare cazzate. Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, forse farei lo stesso. Mi piace far canzoni e bere vino, mi piace far casino, poi sono nato fesso. E quindi tiro avanti e non mi svesto dei panni che son solito portare. Ho tante cose ancora da raccontare per chi vuole ascoltare e a culo tutto il resto. Oh, lo senti l'aereo? No, non lo sento l'aereo. Ah, ok, peccato, lo sentiamo solamente noi. Era un bel... Eravamo in elicottero. Sì, eravamo in elicottero noi, perché praticamente c'è il telefonino sotto carica, quindi ovviamente, sì, noi lo sentiamo. Ah. Allora, siamo tornati. L'avvelenata. Vai. L'avvelenata. Bisogna seriamente dire qualcosa su un pezzo del genere. Io non penso. Non credo nemmeno io. Che una canzone scritta oltre 40 anni fa, attualissima oggi, sia, cioè, si racconti da sé. Anche se non era il pezzo in sé di Guccini, non è il mio pezzo preferito di Guccini. Qual è? Cioè, non lo so, quali allora, ci consigli? Quali ti garbano di più? Dici. Allora, diciamo che quello su tutti, Amerigo ed Eskimo, tutte e due dall'album Amerigo, che ho la fortuna di avere in vinile, e quei due sono qualcosa bello, di veramente... Sono... Cioè, non trovo veramente parole per descriverli. Ma tutto Guccini è così come il folk, cioè, pari merito, Dylan, mio altro grandissimo amore, eccetera, è qualcosa che mi porto dentro e che penso che per fare un genere come il mio bisogna avere dentro. Vive il Difatti folk, anche vive nella il prima folk. Canzone... Infatti anche nella prima canzone, in ovvietà, quando dico io non sono un cazzo a differenza di Francesco, è un esplicito riferimento alla riferisci alla lui, è lui quel Francesco. Eh sì, ovviamente. Non penso che era il fruttivendolo sotto casa sua, mi sa, no? Poteva essere anche De Gregori, per quanto se ne sapeva. Sì, grazie. De Gregori sì, allora io adoro De Gregori, però Guccini sì. È Guccini. Certo, certo, poi ognuno c'ha i suoi. Sì, appunto. Io personalmente sono più De Gregoriano, volendo, non so se si... Io invece... Mezzo, però nel senso, Guccini, io credo, non lo so, anche l'avvelenata nello specifico, non lo so, l'abbiamo ascoltata adesso. A me piace perché sembra uno che aveva proprio voglia di scrivere quelle canzoni e ci ha messo, cazzo, tutto veramente. Cioè, si sente proprio anche da come le canta, da come le interpreta... che proprio le sente in una maniera maggiore di molti, cioè in una maniera particolare, ecco, le cose che dice. Guarda, riflettevo con un mio amico l'altra sera che Guccini ha anche la particolarità che non può essere capito da tutti, nel senso, secondo, cioè da quanto è emerso da questa discussione con questo mio amico, Guccini può capire solamente chi ha passato magari quelle serate mezze alcoleniche in una cucina rustica con litri di vino a casseggiare con amici. Ecco, se non hai passato, secondo me, quella fase, non puoi veramente capire appieno Guccini. Sì, sì, è una bella lettura. Sì, dai, sì, è una bella lettura, soprattutto fresca, cioè non l'avevo mai sentita in questa fresca. Non l'avevo mai sentita in questa ci deve veste. Essere insomma, una certa esperienza. Sì, in sì, questo sì, campo, sì, sì, sì. Odiatemi quanto volete, ma io invece Guccini, sì, lo sento ogni tanto, però non sono due miei artisti preferiti, né Guccini né De Gregori. Sono cioè, anche, anche per questo c'è su gusti, sì, sì, appunto. Ma tu sei un satanico del cazzo. Ma che cazzo dici? Non è vero. Non è vero. No, no, da che parte stai? Ma Gesù Cristo. Allora, guarda, per fartela molto semplice, io sento tutto, ma proprio bravo, di tutto. Bravo, perché bravo. Comunque, essendo anche cantante, tutto quello che circola tu lo devi conoscere. Sì, sì, perché poi comunque ti fai una tua idea, magari ti cambia anche il metodo di scrittura, penso, giusto? Sì, certo. Cioè, anche un po' a livello di ricchezza sonora. Esatto. Perché io magari posso ascoltare il gruppo ska, poi mi sento, per dirti, De Gregori e poi mi senti Pantera, cioè bisogna veramente variare. Certo, cioè, penso certo. Che sia bella anche questa la musicalità. A voglia, cioè, a voglia. Dove c'è qualità a livello sonoro e anche di intenzione, io l'apprezzo. Cioè, perché ti ascolto anche gruppettini considerati un po' commerciali, tipo, per dirti, i Lumini. Per me i Lumini sì, sono sì, un gruppone della Madonna. Sono bravissimi. Cioè, sonorità incredibile e si vede che ci mettono passione. Anche pochissimi certo. Artisti rap, pur essendo lontanissimi da quello che faccio. Certo, cioè, certo. Bisogna riconoscere la qualità e soprattutto la non ipocrisia del musicista in quello che fa. Cioè, sì. Per me tu fai una cosa col cuore, fatta bene, senza fronzoli, senza ipocrisia, per me sei un ottimo musicista, punto. Se, io non lo so, se posso dire una cosa, secondo me bisognerebbe uscire un pochino dalla logica dei generi, no? In sì. Quanto a musica, no? Perché i generi sì, a cosa sì, servono? No, servono soltanto a venderla la musica o comunque a classificarla in modo che uno possa ritrovare delle cose simili, no? Però a parte per quello, non dovremmo proprio pensarci, secondo me, al genere, no? Ognuno dovrebbe avere la sua forma espressiva e non è che devi essere cioè, anche non lo so, per dire, il genere cantautorale, così, cosa vuol dire? È una cazzata, secondo cioè, me. In realtà dire, non vuol dire, ecco, non vuol anche dire presentare, niente. Cioè, non lo so, nel senso, presentare un progetto come, cioè, capito, dirsi cantautore è una cosa soltanto, è una definizione, basta, sì, no? Nel senso, per facilità, cioè, la definizione più che altro sono facilità. Può esserci un pezzo cantautorale, per come lo intendo io, il genere cantautorale, può essere anche, non so, un pezzo di un gruppo, capito? Non, cioè, magari poi, nel senso, è un pezzo in cui il testo ha un particolare rilievo, per come la vedo io, non lo so, il genere cantautorale, non lo so, per me è un pezzo guarda, cantautorale. Guarda, ma mi trovi d'accordissimo. Cioè, io più che altro, questo genere che voglio proporre, insieme a cantautorale, cioè, che si inquadra, che inquadro per facilità, ma cantautorale, più che altro... Più che fare musica, fare fotografia per me. Anche certo. Un gruppo di cui parlavamo prima, per esempio gli Ethan Circus, quando in canzone di Natale ti descrivono il ragazzino che sta sclerando, che deve andare dal push. Sì, sì, sì, sì. Quello per me è cantautorale, cioè quella tutta è fotografia. Pusher, Abdul. Abdul. Abdul. Abdul. Abdul. Abdul. Abdul libero, certo. Com'era poi che poi aveva i guanti, no? Ah, sì, sì. Ah, che la nonna gli aveva regalato un paio di guanti, mentre lui invece voleva i contanti. I contanti voleva, giusto? Dove te ne vai, coglione, certo. Sì, sì, sì. Cioè, sì, per sì, dirti... Sì. Cioè, là in quel momento loro fotografano una precisa realtà esistente ed è quello, certo. Secondo me, che può essere classificato come cantautorato, è quello che io cerco nel... Non so se andando bene o andando male, perché non lo posso dire io, ma cerco di farlo. Secondo noi bene. Molto comunque bene. In linea di massima più... Cioè... Voi siete di parte. No, ma voleva essere un discorso generale, no? Nel senso, usciamo sì. In generale dal discorso generi. Io ho fatto sta sì, roba. Cioè, sì. Boh, poi, no, ma c'è assolutamente ragione. Tipo, cioè, insomma, è... Buono, ma basta. Buona. C'è bisogno di riprendere. Buona. Allora, facciamo una cosa, Giardi. Adesso andiamo con l'ultimo tuo pezzo dalla scaletta, perché poi... Aspetta, premessa. Dica. Premessa. Dai, dici qualcosa, presentacela, dai. Allora, premessa. Allora, questo è stato il primo pezzo che ho registrato col Giardino. Nessuno sa cosa voglia dire veramente il testo. cioè, la, non lo dirò mai. Ognuno se per te va bene così, è giusto così. È giusto così, te così risparmiamo anche senti, del tempo. Tutti facciano sempre quello che si sentono. Se, cioè, esatto, e poi, esatto. E poi la paraculata, per tornare al discorso sempre di prima. Sì, il bello della diretta. Alcuni errorini, ci sono alcuni errorini, ora live, soprattutto con Giuseppe, viene presentata in modo molto diverso, molto migliorata, riarrangiata anche in chiave, in alcuni punti sonori, oserei dire addirittura tendenti allo showgate, però non del tutto, non vi preoccupate. Senti, io coglierei quindi l'occasione per dirti una cosa, ora ti interrompo, scusami, però noi qua, non lo so, anche, insomma, io partecipo ad esempio il lunedì a un programma che si chiama Fuoco alle Polveri, però insomma, si fa anche delle volte cose live, comunque via radio, così, se per caso passi qualche volta a trovare Joe, sì, se passi da comunque queste passi da queste parti, così, se hai voglia, se ce lo dici per te, tempo così magari si riesce anche a farti suonare, no, no, no. Cioè, assolutamente assolutamente no, che mi state in cazzo. Oh, come ci stiamo, non è non dire baggianate. Maledetto, sto scherzando, guarda, se ci sarà occasione veramente è un piacere, cioè trovare realtà del genere che spingono comunque un tipo di musica che sì, può essere un discorso qualunquista, generalista, tutto quello che volete, ma purtroppo in Italia è arretrato, bisogna guardare la realtà dei fatti, è bello. Trovare questa coesione comunque musicale, questa fraternità musicale è bello. Una cosa che io, Giovo, Pablo Carolevo ormai è diventato la star di questo programma, Giuseppe, oh, e tanti altri abbiamo capito forse un po' tardi a cantare. Quindi bella. Penso che sia arrivato il momento anche di ringraziarvi per quello che state facendo e di fare migliori auguri a questo programma che, a quanto ho capito, bisogna dire tipo Wombat Wombat Wombat Wombat, perché è la radio, quella, Wombat è la radio, è la radio, è la radio, è la radio, sì, che, sì, all'interno di cui, della quale è inserito il programma, insomma, è una radio, questo, libera, insomma, music box Giovanni Pace. Sì, sì, sì, no, allora, non tutto ovviamente, perché poi ogni programma c'ha la sua, però comunque sì, sì, alla fine dei conti sì. Già il fatto, vabbè, che comunque seleziono io le band per le mie sonorità. Sì, che ti scappace, ma perché prendi tutto sul serio? Ma rilassati. Sì, sì, tranquillo. No, ma stavo scherzando, dai, non si capisce. Wow, quando ti vedo ti giuro che io ho tanti di quelli... No, non è vero, ti voglio bene. Comunque... stiamo divagando. Sì, sì, ok, andiamo. Gli schiaffi andiamo virtuali, facciamo. Sì, gli si schiaffi... manda sto pezzo. Si manda, sono si manda. Sono qui a aspettare. Io buono, si manda. Allora, premessa, questo pezzo c'è tipo 6.000 visualizzazioni su YouTube. Beh, bella, ma no, storia. Ma non è vero. Va bene, 4.500, sì, c'è ragione. Ma neanche 3.000, ma che cosa? Ah, ok, vedi. Devo farmi diviso due. Vabbè, ma chi se ne frega? Era per dire che comunque l'hanno sentita. Ve lo siete tenuti per ultimo. La chicchetta, mi dite. Vai. Partiamo, mi dite, facciamo, sono partiamo, gli errori. Partiamo, porta... partiamo. Vai, sì, vai. Sì, lo voglio. Vai, Requiem. Parliamoci chiaro, con le vostre manifestazioni, dal volto coperto, va di lusso solamente dagli alimentari per via. Ora parliamoci chiaro, siamo la generazione migliore e si va avanti lo stesso, senza muovere un dito. Siamo la generazione migliore, la generazione migliore. Generazione che mi sveglia e va a far culo nella notte su un cuscino bagnato. Siamo la generazione che urla frasi fatte da altri vecchi che ci è passato prima di me. Siamo la generazione che si urla indipendente quando la madre non c'è, quando la madre non c'è, quando la madre non c'è. Siamo la generazione di chi ha provato l'erba, o è passato ad altro, o è esagerato, non ha mai aspirato, non ha mai respirato. Siamo la generazione degli amori di piombo e del sesso venduto al miglior offerente. Siamo la generazione incazzata e distorta, o moscia e depressa, uomo se depressa. Se la generazione migliore, la generazione migliore, la generazione migliore. Siamo la generazione migliore, la generazione migliore, la generazione migliore. E ripetilo sempre, finché non si fissa nella mente. Siamo la generazione che sbraita alla fine, perché è giusto così, è una tattica vincente, lo fanno tutti. È una tattica vincente. Siamo la generazione dal volto coperto che mi spiglia e vaffanculo, che urla frasi fatte, che si urla indipendente, che ha provato l'erba degli amori di piombo, incazzata e distorta, incazzata e moscia, incazzata con tutti e senza un motivo. Siamo la generazione. Siamo la generazione della caverna di Platone. Siamo la generazione che va avanti a citazioni. Uè, Giardi. Ehi, ho bevuto un sorso d'acqua, un sorso d'acqua, hai cioè un attimo. Hai fatto bene, molto bravo. Bene. Allora, abbiamo detto che questa canzone non la spieghiamo. Non la spieghiamo, però magari un po' di... Cioè, qualche parola? Questa è stata un preambolino, è stata la prima registrata, messa su YouTube prima addirittura di suonare dal vivo, ha avuto... un ottimo riscontro e niente. Che... potrò spesso mi annoio un po', cioè penso che cazzo dopo 2 anni ancora suonare Requiem, però è sempre bello suonarla perché per me sarà sempre carico di quell'emozione con cui ho registrata, con i suoi errori, con la sua inesperienza, con me, però è una figlia, è il primo figlio, è il primo figlio appunto. Giardi, ma si sente sta cosa in questa registrazione, cioè, la urli, la senti sta canzone, si sente, e nel senso non è che ci sia bisogno di spiegarla, viene dal profondo, nel senso una canzone per ognuno può voler dire anche una cosa differente, diversa, ecco, sì, nel senso è bello anche poter cioè che tu ci lasci la libertà di interpretarla, è un regalo ulteriore, sì. Certo, alla fine no, penso che anche se ti dicessi no, vedete che il significato è questo, sarebbe... No, non lo devi fare, fare che ci abbiamo delle idee in testa. Non farla e basta, ora così a merda vi piglio, vi faccio Requiem, ciao. Le canzoni vanno prese come vengono, sì, certo. Le fotografie, il discorso della giornata. Poi, sì. Non lo so, la musica è diretta, no? Cioè, appunto, lo scopo appunto è di portare un'emozione in un momento, no? Sì, e quindi, sì. Cioè, se te riesci a portare quell'emozione in un momento, in quel momento, che sia live, che sia registrato, ora io ho sentito solo la pre-registrata, sarei curiosissimo di sentirti live, infatti sì. Rinnovo l'invito e dico, insomma, speriamo presto, dai. Dipende da Pace. Io ho letto, ce l'ho, anzi pure un doppio volendo. Per il maestro, sì, Europa, sì, dai, quindi... domani arrivo. Va mattinata. Bene, va bene. Però devi aspettare il prossimo martedì per andare live un'altra volta. A meno che non ti registriamo. Cazzeggiamo una settimana a Firenze, no? Mo... Sì. Torna lì. Ce n'è per cazzeggiare. Vieni. No, cazzo, bisogna studiare. Ho tanto da fare. Non è che posso giocare con voi. Sì, questo è anche vero. Siamo tutti messi a pecora, come si suol dire. Sì. Siamo tutti messi così. Allora. Andiamo per i botti conclusivi, dai. Bella, Giardì. Allora, è stato un piacere. Lo salutiamo, poi magari mandiamo l'ultimo pezzo. Che ci spieghi? Ce lo spieghi l'ultimo pezzo? Allora, l'ultimo pezzo l'ho voluto inserire perché è veramente parte di tutta una formazione musicale che mi ha reso quello che sono. Cioè, formazione musicale che deve essere sempre in continua evoluzione. Però penso che... punk rock e soprattutto il grunge siano qualcosa che mi è entrata dentro nei bei tempi andati della preadolescenza e che non se ne è mai andata. A è parte, giusto. Vabbè, soliti Nirvana, Alice in Chains, eccetera, ma i Pearl Jam, di Red, sono una pietra miliare, sono troppo bravi, pietra miliare, qualcosa di stupendo, sì. Tra l'altro cose che pur facendo magari a volte cose diverse, penso che ci sarà sempre una traccia di me di quel periodo, dei miei vecchi gruppi, di quello che suonavo prima, eccetera, e penso che sia giusto anche così. Certo, certo. A voglia. È giusto così per tutti, credo. Cioè, sì, sì, sì, assolutamente. Si parte da qualcosa, si va a qualcos'altro, si riprende, rimane sempre tutto dentro alla fine. Sì, sì. Quindi viva, dai. Viva, viva. Viva e basta. Viva e basta. Viva Radio Wombat. Viva, viva Radio Wombat, viva il giardino, viva, viva il giardino. Music no, viva il giardino, non si dice fanculo. Vaffanculo il giardino di Armida. Vaffanculo. Fanculissimo. Viva la droga, al massimo. Viva la droga, sì, viva la droga. Viva la droga. Allora, Giardi, passiamo ai saluti conclusivi, poi carichiamo il pezzo e arrivederci e grazie, come si suol dire. Ragazzi, allora, è stato un immenso piacere da parte mia, perché ho detto la prima puntata, la devo far partire con un amico, assolutamente. E chi meglio del Giardino di Armida? E ricordati, Pace, che io alla tua prima prova con gli EDD c'ero, ricordatelo sì. sempre. Ma tu eri uno di quelli che mi ha parato il culo o che mi infamava? Perché no, c'è... no, io dissi a Silvestro, oh, lo sai che mi piace? Poi ovviamente me ne pentì subito. sto scherzando. Ma ti si vuole tanto bene. Niente, Gio, è stato assurdo. Ti auguro il meglio per questa cosa. Pisso. Giardino, io sono innamorato di te, perché non avevo niente da dire. Allora, porca miseria, vediamoci presto e batteria scarica, il telefono si spegnerà tra poco, quindi in ogni caso dobbiamo salutare. Quindi addio, ragazzi, grazie di tutto, a un presto, saluto Giardino. Agli ascoltatori di Music Vox Pop. Wombat. Stra Wombat, grazie, Wombat, viva. Wombat. Vai, ciao Giardino, grazie. Ciao. What the fuck is this world? Ran to you, didn't leave a message, at least I could have learned your voice one last time. Daily mind field is good, be my time by you. Would you hit me? Would you hit me?